Benvenuti, benvenuti a tutti nella nostra piccola biblioteca provinciale che ogni settimana si apre le porte per un'iniziativa serale e il mese di marzo è un mese che abbiamo dedicato così al giallo. La scorsa settimana c'era Umberto Gandini che ha presentato il suo nuovo romanzo e per la prima volta è un romanzo in cui si cimenta nel genere poliziesco e ambientato a Bolzano con un protagonista bolzanino. Questa sera invece abbiamo due autori con due libri diversi, sempre nell'ambito del poliziesco, del noir, e abbiamo con noi Graziano Bortolotti e Sergio Paoli, che sono nostri corregionali, quindi ci siamo un po' aperti. E dunque, Graziano Bortolotti è ispettore capo della Polizia di Stato a Moena, mentre Sergio Paoli è ispettore capo della Polizia di Stato a Trento. Scrivere un romanzo giallo oppure noir, comunque del genere poliziesco, come diciamo noi bibliotecari, è sicuramente un'impresa non da poco, perché rispetto a un romanzo di narrativa dove ci vogliono altri registri, sicuramente creare una trama, degli intrecci, la suspense, la motivazione comporta molta fantasia innanzitutto, ma credo anche una lucidità non indifferente nel tenere sempre ben presenti tutti questi meccanismi. Ci sono anche delle regole precise e ogni tanto, permettetemi questo appostamento un po' azzardato, però le regole della poetica di Aristotele, che fissava tutta una serie di termini, a volte per il genere poliziesco potrebbe anche andare bene, cioè questa rigidità e questa competenza non sono da poco. È un genere che sta conoscendo un grande interesse anche da parte del pubblico e devo dire che anche la biblioteca, che di solito raccoglie questi generi, soprattutto questi tipi di romanzo, sia di ambientazione locale o di autori locali, confermo che effettivamente vengono prestati molto. Ecco, quindi è un genere che manca molto anche il racconto del nostro territorio, in questo senso un'ambientazione più legata al nostro territorio, però chissà, magari domani sarà uno spunto anche per voi. Ringrazio Sandra Mattei che ha accolto il nostro invito ad aiutarci a presentare i due autori. Sandra Mattei è redattrice della pagina culturale del quotidiano Il Trentino. Ecco, vi porto i saluti dell'assessore Tomasini, che forse ci raggiunge nel corso della serata. E intanto buon ascolto. Grazie. Allora, prima di tutto gli autori sono stati presentati, ma titoli dei due libri vi daranno immediatamente un'idea che i due libri e i due autori sono stati associati, ma non hanno grandi cose in comune, se non i dati anagrafici dei due autori, perché ambedue, appunto, come ha detto la direttrice, sono ispettori capo, uno alla Polizia di Stato di Moena, l'altro alla Questura di Trento, sono sulla quarantina, ma direi che i dati anagrafici finiscono qui. Ecco, allora, il libro di Graziano Bortolotti, iniziamo dalla B in ordine alfabetico, Pista di sangue, è quello che è proprio un romanzo da inserire nel genere thriller a tutti gli effetti, con una costruzione su vari piani e evidentemente che si rifà un po' ai generi di autori che tutti voi probabilmente avrete letto, da Ken Follett a Grisham e Kina Crichton eccetera, mentre invece il libro di Sergio Paoli, al termine del servizio, redigere una dettagliata relazione dettagliata relazione, ecco, qui vi dà l'idea già dal titolo che è un genere un po' più sempre poliziesco, ma poliziesco ironico evidentemente. Anche le dimensioni del libro, il libro di Paoli è una raccolta di racconti molto agili, brevi, concisi, e perciò direi che la conversazione poi dovrà essere per forza fatta separatamente, perché gli intenti dei due autori sono decisamente diversi. Ecco, allora inizio dall'ordine alfabetico. Pista di sangue, e diciamo anche l'editore La Corte, è costruito appunto su questi piani paralleli, come dicevamo, dove due sono gli elementi essenziali, e sono l'aver ambientato il romanzo in questo ipotetico futuro, ma molto vicino a noi, perché poi la scadenza, non so, Graziano l'avrà scritto magari qualche tempo fa, qualche mese fa, però è ambientato casualmente alla fine del 2009, inizio 2010, per cui si inserisce in questo periodo temporale. Ecco, l'elemento principale, dicevo, è quello della minaccia terroristica, per cui si ipotizza che l'organizzazione d'Al-Qaeda abbia in mente di organizzare una sfida così per vincere definitivamente la battaglia sull'Occidente, per mettere in ginocchio l'Occidente, con una serie di attentati che dovranno svolgersi, e alcuni riescono, altri per fortuna no, e nelle principali capitali europee, per cui con un piano che parte da Roma, poi un ulteriore attentato avviene a Parigi e poi il terzo dovrebbe avvenire a Londra. Ecco, il futuro è quello chiaramente che potremmo vivere ipoteticamente anche in questo nostro periodo. La trama però è arricchita ulteriormente da vari elementi, che sono quello di aver anche ipotizzato, e poi si intrecceranno le due vicende degli attacchi terroristici, a questa altra minaccia che incombe, anche quella purtroppo ai nostri tempi, che è quella della sperimentazione transgenica, della così sperimentazione di farmaci sempre più così sofisticati, che però potrebbero anche questi costituire una minaccia se questi farmaci venissero poi psicofarmaci venissero utilizzati anche per così indirizzare le menti, i comportamenti dell'uomo. Infatti adesso non posso anticiparvi proprio tutto, ma questo psicofarmaco che una società sta cercando di mettere sul mercato avrà probabilmente degli effetti devastanti sull'uomo, perché creerà una dipendenza molto forte, e questa società di farmaci si coalizza con una società invece di generi alimentari, pensando di poter appunto diffondere a larghissimo raggio questo tipo di farmaco, che potrebbe condizionare appunto anche le menti degli uomini. Per cui ecco, già il libro di Bortolotti ha una trama che è molto complessa. I protagonisti poi di questa trama sono evidentemente gli elementi che partecipano a questi attacchi terroristi. Dall'altra parte c'è uno scienziato senza scrupoli, che è quello che sta approntando e che dovrà dare l'ok per approvare questo psicofarmaco. Ci sono tutta una serie di figure di contorno. L'elemento che accomuna, che tiene insieme il filo conduttore di questa trama molto complessa è Max Venturi, che è, diciamo, l'alter ego di Graziano Bortolotti, con alcune caratteristiche evidentemente in cui lui si sarà riconosciuto, è un ex poliziotto, ma soprattutto ispettore, anche lui insomma ha avuto un ruolo nella polizia, ma attualmente fa lo scrittore mentre la vicenda si svolge, e è soprattutto un grande appassionato di sci da fondo. Per cui ecco, la particolarità del libro è aver immaginato questi scenari così globali di attacchi al cuore dell'Occidente e di attacchi anche alla salute dell'umanità, ma inserendo un elemento che è quello che più appartiene evidentemente all'autore, che è quello della passione per lo sci, della passione del fondo, del grande nord, per cui e la vicenda, abbiamo detto, si svolge fra capitali, Roma, Parigi e Londra, soprattutto, dove si tenta poi di riuscire a bloccare questo intento, insomma, di fare l'ultimo attentato terroristico, ma il tutto poi si concentra, e le varie vicende dei personaggi si concentreranno nella località di Mora, questa piccola località dove si svolge la Basa Lopez, sapete anche voi, e dove il protagonista, malgrado lui, si trova in cappa in questo scenario così apocalittico, per cui suo malgrado dovrà affrontare da una parte il tentativo di bloccare questo appunto intento della società che vuole mettere sul mercato lo psicofarmaco, e dall'altra si incapperà anche in questo disegno terroristico di annientare l'Occidente. Ecco. Dall'altra, se appunto Graziano, dicevo, ha lavorato per così una trama molto complessa che mette insieme molti altri elementi, scusa, poi mi sono dimenticata un particolare, che anche quello fa parte un po' dell'intreccio e della tensione. Il libro inizia con un'ambientazione nell'antichità, nell'epoca dei Sumeri, e questo fino alla fine non si capisce bene dove vada a parare, ma poi appunto ci si arriverà, e perciò c'è anche questo elemento in più di vite parallele, di reincarnazione, che è un elemento che poi nella narrazione rappresenterà un'occasione anche per mettere insieme tutti questi vari pezzi del mosaico. Ecco, dicevo, se da una parte Graziano ha lavorato molto di fantasia, nonostante insomma gli scenari siano quelli con cui ci stiamo confrontando tutti noi al giorno d'oggi, e invece Sergio Paoli ha lavorato molto per sottrazione nei suoi racconti. È una raccolta di una quindicina di racconti. Sì, sì. E poi lui ci racconterà, è stata fatta una scelta perché lui ne ha scritti molti di più, e i racconti sono molto agili, molto sintetici, e abbiamo detto che la chiave narrativa è quella proprio dell'ironia, e naturalmente tutti e due gli autori sono partiti da una loro esperienza evidentemente personale, non hanno poi avuto molto difficoltà, insomma, a trovare il modo per parlare da una parte di indagini che cerchino di contrastare il terrorismo, dall'altra, se gli scenari che ipotizza Bortolotti sono così globali, invece quelli di Sergio Paoli sono molto più limitati ad uno scenario che è quello locale del suo ambiente di lavoro. Diciamo che prima di diventare ispettore capo, Sergio, che io ho conosciuto perché nel mio lavoro giornalistico a suo tempo ho fatto anch'io la nera, come tutti quando iniziano a fare la gavetta, e appunto lui era un agente delle volanti con cui noi andavamo. Io a ho fatto la gavetta. Hai fatto anche tu la gavetta. Abbiamo fatto la gavetta, certo, con la nera. Ecco. E io non sono neanche diventata scrittrice, vedi che mai in qualche modo battuto. Ecco, i suoi racconti invece sono evidentemente materiale che lui ha raccolto in anni di servizio sul territorio, di lavoro come agente delle volanti. E forse in questo senso sua così originalità è stata riuscire a cogliere dal suo lavoro non tanto gli aspetti eroici evidentemente o i delitti più gravi che ti sarà successo probabilmente con cui dover avere a che fare nelle indagini, ma gli aspetti più umani, anche giustamente mi piaceva citare la prefazione che ha scritto Alessandro Marangoni, che è il questore di Palermo. Lui dice: in fondo gli agenti delle volanti hanno una funzione che è quella un po' del pronto soccorso per i malati in una società dove anche la polizia ha a che fare spesso e volentieri con persone emarginate, con persone con dei problemi, che non sono dei veri delinquenti alla fine. Insomma, e c'è questo sguardo un po' più benevolo quasi nei confronti di questi ipotetici, così fra virgolette, delinquenti, ma che sono il più delle volte magari persone che hanno problemi di fallimenti, di miserie umane. Paoli racconta le beghe di un condominio dove una settantenne accusata di tutte le nefandezze, di insomma, disturbare la quiete pubblica di quel condominio, e poi la volta che le volanti intervengono, in realtà alla fine si rivela lei la vittima e non la colpevole di tutti questi fatti, ecco. Per cui è uno sguardo un po' diverso da quello che intenderemo come il classico, appunto, resoconto. Chiaramente, fin dal titolo, al termine del servizio, nel dire dettagliata relazione, si capisce che queste relazioni che tu, Sergio, scrivevi al termine dei tuoi servizi erano una cosa che ti stava un po' stretta e con cui poi questi racconti hanno potuto un po' dar sfogo, insomma, a quella che era invece la tua vena di scrittore. E poi racconterai anche tu, mi avevi detto che a suo tempo eri stato ripreso, perché all'inizio scrivevi delle relazioni che erano ben poco, Non entravano così, nei burocratiche. canoni di quello che si aspettava. Va bene, allora, non so, io adesso direi che, insomma, in linea così generale, ho presentato le due trame. Poi non vorrei svelare più di tanto, perché no, rischiamo di non incuriosire neanche i vostri lettori, ma con una serie di domande, insomma, cerchiamo di capire appunto quali sono state le vostre scelte. Ecco, diciamo che poi anche Graziano, che non conoscevo, e adesso anche durante il viaggio, mi ha detto che il suo libro è stato in gran parte anche quello modificato, perché la sua capacità è proprio stata quella di entrare in questo meccanismo dei romanzi, dei thriller, in cui effettivamente tutte queste varie vicende si intrecciano, tu cerchi di capire dove sta poi appunto il punto che li accomuna tutte, e quest'ulteriore anche espediente di aver iniziato la storia all'epoca dei Sumeri, poi ci farà capire in qualche modo come l'hai svolta durante la narrazione. Ecco, allora, prima di tutto ti chiedo perché proprio iniziare da questo espediente di far risalire la storia all'epoca dei Sumeri. Beh, innanzitutto permettimi di salutare qualcuno, Sandra, e di ringraziare te per prima di essere qui con noi a presentarci. Ci sembrava una bella idea farlo insieme, no? Io e Sergio e io, due persone normalissime, ci accomuna il fatto che siamo appartenenti alla Polizia di Stato e ognuno con le proprie esperienze. Ci sembrava bello metterci insieme, presentare i nostri lavori, no? Le nostre piccole fatiche, le nostre passioni in definitiva, e quindi eccoci qua, insomma, no? Con le nostre differenze, però insomma uniti da un qualcosa veramente così che condividiamo. Non ultimo il fatto che ci conosciamo di volta in volta, ci conosciamo da anni, però è anche un modo per conoscerci meglio e diventare anche un po' più amici, no? Quindi questa è una bella cosa. E speriamo che sia l'inizio di una serie di presentazioni. Volevo ringraziare Valeria Trevisan, veramente gentilissima e disponibilissima nell'accoglierci anche quando ci siamo presentati che per la prima volta, e non è da tutti dare subito disponibilità. Ringrazio voi che siete presenti e vorrei ringraziare e salutare Giovanni Accardo, che per me è una persona cara e importante, perché se poi si riesce a scrivere è anche perché qualcuno ti insegna anche a scrivere. Allora, Giovanni Accardo è il direttore della scuola di scrittura creativa di Bolzano presso l'UPAT, e io qualche anno fa ho partecipato a uno dei suoi corsi, il quale mi è servito molto. E ringrazio anche la presenza della libreria Libri e Libri per il fatto appunto di accompagnarci in questa presentazione. Ecco, sì, Sandra, io sì, in effetti inizio la mia storia dai Sumeri. C'è un piccolo episodio che si svolge all'epoca dei Sumeri e poi tutto si ribalta, si proietta nei tempi nostri. quando una persona inizia a scrivere, deve avere essenzialmente voglia di farlo, ma anche essere molto curioso, molto ricettivo. Avevo sentito un'interessante trasmissione alla radio che parlava dell'antica città di Nippur. Attualmente Nippur non esiste più, però si può, diciamo, collocare nell'attuale Iraq. No? Nell'attuale Iraq, quindi nella Mesopotamia, in quella culla che è stata la storia dei Sumeri, che è poi una culla di cultura che noi comunque, anche se non ci accorgiamo, si beneficia chiaramente anche ai tempi nostri. Ecco, questa città di Nippur, raccontata come mi è stata raccontata da questa trasmissione, mi aveva veramente subito interessato, accattivato e è scattata subito questa bella idea di dire vabbè, allora facciamo partire qui la storia e quindi niente, è partita da questa idea, da questa cosa affascinante che è appunto questa antica città. Naturalmente questo spunto, questa piccola idea è stata poi completata da una lettura di un bellissimo libro che mi è capitato di incontrare nella mia vita, perché a volte i libri cercano noi e noi cerchiamo i libri, no? È una cosa, insomma, senza spiegarvi perché e per come, mi è capitato questo libro che si intitola Molte vite e un solo amore di Brian Weiss, che io vi invito tantissimo a leggerlo se ne avete voglia, e attraverso il quale, insomma, attraverso questo libro si parla delle vite precedenti. Ecco che allora poi lo scrittore comincia a partire con le idee e da qui il motivo, insomma, ecco. Certo, perché poi uno dei personaggi in pratica, attraverso la scoperta di questa specie di reincarnazione, non si può dire, ma comunque di uno dei terroristi, riuscirà a bloccarlo proprio mentre sta tentando di uccidere una delle protagoniste, per cui ecco, questo elemento poi riinterviene in vari passaggi del romanzo. E alterniamo a questo punto, se no per forza di cose ci dilunghiamo troppo su uno sulla. Ecco, invece Sergio, noi abbiamo parlato del protagonista del tuo romanzo, che è Max Venturi, ex poliziotto, poi anche lui ha avuto, insomma, un tragico passato e al momento si dedica appunto soprattutto alla scrittura e alla sua passione dello sci da fondo, mentre invece il tuo alter ego, Tommaso Costalta, che ha il soprannome di Javert, è il protagonista di tutti i racconti di questa raccolta e come nella più classica delle serie poliziesche, soprattutto televisive, insomma, e la coppia di poliziotti, ci sei tu, insomma, Javert e il suo compagno Alfio, uno naturalmente che lavora in questura del nord come Javert, e invece Alfio, che è un collega con origini meridionali, per cui un po', insomma, questi due caratteri che si compensano, uno un po' più razionale, più distaccato Javert, invece Alfio un po' più eruente, più un po' più fanfarone anche nelle sue conquiste femminili, no? Ecco, perché anche l'elemento chiaramente poi delle conquiste galanti nei racconti è sempre dei tentativi, diciamo, è sempre ben presente. Ecco, per cui questi personaggi, anche qui tu ti rifai un po' al genere poliziesco, un po' più ironico, d'altelente, Colombo, così, con l'aria trasandata, come potete avere voi agenti con la vostra marea appunto in dotazione della polizia, oppure insomma le coppie più famose, Starchi e Hutch, eccetera. Però naturalmente poi l'ambientazione, come dicevamo prima, dei racconti di Sergio è proprio riconoscibilissima in una città come quella dove tu lavori, come Trento, per cui chiaramente per noi trentini si riconoscono tutta una serie di vie, strade, palazzi, e è molto godibile anche per questo. Ecco, dicevamo, appunto, c'è questo sguardo sempre piuttosto così disincantato nei confronti sia del proprio lavoro, anche avere dei momenti così di quasi partecipazione nei confronti dei personaggi di varia umanità con cui voi vi trovate a dover avere a che fare, e fra i più riusciti ci sono una serie di racconti, ad esempio poi magari leggeremo un passaggio sia di un libro che dell'altro, e c'è l'innamorato appunto deluso perché non si è reso conto con chi aveva a che fare e che appunto ha avuto tutti i suoi risparmi dilapidati, o c'è un po' lo scemo del villaggio, quello che viene sempre individuato per dei tentativi di suicidio che poi non porta mai a termine, perché sono dei tentativi di suicidio assolutamente strampalati, dove non potrebbe mai farsi del male, e avanti abbiamo detto anche appunto la vicina così eccentrica di questo condominio che poi alla fine diventa la vittima delle ritorsioni del condominio. Ecco, e varie, ecco, allora prima di tutto, insomma, quanto c'è di vero e quanto di inventato in questi tuoi racconti? Cioè, di vero c'è sostanzialmente tutto, i racconti sono tutti originati da interventi fatti da me, nel corso di tanti anni, interventi che il lavoro che faccio mi impone di scrivere. Una cosa che uno non pensa mai quando pensa ai poliziotti è che i poliziotti scrivono, non scrivono solo i verbali delle contravvenzioni, quelli ce li ricordiamo tutti, ma il poliziotto a fine della giornata, quando qualsiasi attività lui mette a frutto, deve poi scrivere, deve raccontare a una terza persona quello che è successo, e deve scriverla in maniera asciutta, in maniera concreta, fatta bene possibilmente, non deve metterci del suo. E questo è stato il primo dei miei grandi errori quando ho cominciato a fare il poliziotto, perché ci mettevo molto del mio, perché mi sembrava brutto non raccontare qualcosina in più, perché se io dico che trovo Mario che ruba, ho detto che Mario ruba, ma se prima di sapere che Mario ruba già 12 volte mi hanno chiamato e non sono riuscito a prenderlo perché mi è sempre stato più furbo di me, e non sono riuscito perché mi ha fatto tutta una serie di sotterfugi, e poi quando l'ho preso però mi sono accorto che cosa ha rubato, ma ha rubato una cosa che però serviva, che doveva darla alla sorella, che... cioè, se io racconto tutto questo faccio male, perché poi il giudice, il magistrato viene tratto, no, si viene portato fuori strada, però ma sì, io sentivo di doverlo dire una cosa del genere. E il primo arresto, non il primo arresto perché il primo arresto è curioso, ma il primo arresto della mia vita l'ho fatto a Bolzano, perché ho lavorato anche a Bolzano. Sì, c'è, a Bolzano, all'UPIM del centro, quando non so se c'è ancora l'UPIM al centro. Da giovane facevo la pattuglia piedata, e anche questo poteva entrerà probabilmente forse in un prossimo racconto. C'era una signora che riusciva a rubare un sacco di cose da tutti, ma le cose più strane, più grandi, le enciclopedie intere, si portava via di tutto, e non riuscivamo a scoprire chi era questa signora, e da poi alla fine era una signora abbastanza distinta, con una grande pelliccia sotto la quale riusciva a fare entrare di tutto quello possibile e immaginabile. Ma a parte questo, poi la mia prima attività d'indagine, come si chiama così pomposamente, viene portata... la porto dal mio dirigente di allora, tutto orgoglioso di aver fatto una bella annotazione di 4 pagine, tutta quanta, questo me la legge, la guarda e mi dice: ma Paoli, mi fa, ma tu vuoi fare il poliziotto o vuoi fare lo scrittore? Che sono qua, che c'è un arrestato di fuori, vabbè, se vuoi fare lo scrittore scrivi dei libri, mi fa una pallina e mi dice: adesso la rifai, e mi fai una dettagliata, adesso mi devi redigere una dettagliata relazione. Ha fatto il lancio della pallina che ho visto passare. Ecco, da lì è partito, allora voglio la faccio davvero. E da lì ho cominciato a fare delle dettagliate relazioni e a mettere da parte proprio fisicamente tutte quelle parti che non riuscivo più a infilare dentro nelle mie relazioni. E l'ho messa lì e sono diventate un bel po'. che appunto questa è solo una minima parte, dicevamo, della tua produzione della mia... appunto, letteraria, è finita, però lo vogliamo dire prima di tutto, cioè il caso di Sergio è il caso di un libro che è venuto fuori da un blog. Da un blog, che, sì. Appunto, sì. Perché inizialmente i suoi racconti erano su un blog. E tuttora. E anche adesso, sì, anche adesso. Sì, praticamente facevo il doppio lavoro, non mi pagavano due volte, ma facevo la mia relazione di servizio, poi la sera tornavo a casa e riscrivevo quello che avevo già scritto sotto un altro punto di vista e lo mettevo su un blog. E lì sul blog è rimasto per un po' di tempo, poi qualcuno se n'è accorto, qualcuno mi rispondeva, qualcuno piaceva e l'ho messo in fila, l'ho messo assieme, è uscito questo, che devo ancora portare a quel dirigente di allora e farglielo vedere. Però qualche altro dirigente ha apprezzato, cioè questo qualche, di Palermo, ma non quello di Trento, non so. Vabbè, passiamo un'altra volta a Graziano. Il terrorismo è l'altro argomento centrale, no? Se fosse quello delle vite parallele è solo un espediente così narrativo, invece il terrorismo, perché hai deciso di cimentarti con un problema, anche rischiando magari, cioè poi tu, uno dei terroristi, uno di quelli che è implicato nell'inchiesta sul terrorismo e si scopre che è stato incastrato dalla sua compagna, eccetera, per cui non c'è neanche il rischio di identificare islamici tutti terroristi, no, questo lo vorrei sottolineare perché è stato anche attento Graziano a non incappare in questa equazione, e anzi uno poi di quelli che all'inizio sembrano coinvolti negli attentati avrà una parte invece centrale per bloccare gli attentati, ma perché se hai ritenuto di affrontare una materia così complessa? Ma beh, l'argomento terrorismo a me è sempre così, non solo interessato, ma direi di più, l'ho sempre un po' sentito un po' sulla pelle, un po' dentro. E motivi, sicuramente capire perché esiste, che meccanismi ha, perché si creano certe situazioni, indubbiamente per questo. Poi un po' perché la mia generazione, io nato negli anni 60, chiaramente siamo anche cresciuti con certi problemi legati al terrorismo. Se voi vi ricordate, negli anni 70, 80, insomma, e poi via via, ci sono stati degli episodi legati al terrorismo interni nostri, ma anche prima, e poi adesso c'è questo terrorismo più globale, più internazionale. Chiaramente, quando per me scrivere, se scrivo di qualcosa devo partire da un argomento, no? Se sento un argomento allora sento anche la forza e la voglia di fare e di scrivere. E naturalmente poi ci sono anche degli aspetti legati anche alle sensazioni più interne e anche a certe paure, perché se tu scrivi di qualcosa che ti fa anche un po' paura, come ad esempio il terrorismo, è un po' un modo di esorcizzarlo, no? Per certi versi, quindi è chiaro che quando poi termini la tua scrittura speri sempre che non accada mai qualcosa che magari è già accaduto. Nel mio caso, prendo un po' spunto da quello che diceva Sergio, quando poi abbiamo cominciato a lavorare anche con l'editore sul testo, l'editore mi ha detto: Bortolotti, tu hai usato il terrorismo? Sì, come argomento. Bene, allora sfruttalo, no? E allora ti trovi anche a dover modificare anche una tua visione, questo vorrei essere anche chiaro. Perché sono quelle cose che con le quali ti devi anche confrontare. Per cui hai dovuto modificare. Per cui ho dovuto anche un po' sulle indicazioni. Sulle indicazioni, no? Però è un argomento che, ripeto, a me interessa molto e soprattutto lo sento perché fa parte proprio dei nostri tempi. E alle volte ti trovi sempre anche a pensare, insomma, hai un figlio che viaggia, un amico, insomma. Tu poi ti sei immaginato degli attentati di quelli veramente devastanti. Cioè io spesso, io stesso sono stato cioè mi sono trovato in una situazione a Roma 30 anni fa quasi, e mi sono trovato in mezzo a una sparatoria tra un terrorista e un poliziotto. Io avevo più paura del poliziotto che mi scambiasse, ero per strada e mi sono trovato in un conflitto a fuoco, così era un giovane ragazzo che andava, cioè facevo le visite per la polizia proprio in quel periodo lì. E quindi sono cose che poi ti rimangono dentro e quindi ho ritenuto opportuno, insomma, poi svilupparlo. E concludiamo questo argomento qui dei due elementi principali, invece quello degli psicofarmaci, ecco, della minaccia che, diciamo, che il libro è strutturato su due grossi argomenti: terrorismo internazionale e industria dei psicofarmaci, che appunto hanno questo piano diabolico di voler sempre di più inserire, anzi commercializzare prodotti psicofarmaci, in questo caso sempre più forti, e come dicevi tu all'inizio, che creano una dipendenza sempre più forte alle persone. Credo che, insomma, molti di noi conoscono oppure, insomma, sanno del fatto che sempre più persone si devono affidare o si vogliono affidare agli psicofarmaci per superare determinati periodi difficili della vita. Indubbiamente è una scoperta molto molto importante, però è chiaro che spaventa se poi dietro ci sono dei piani troppo audaci nel proporlo, no? Nell'obbligarti a consumarlo e poi appunto a dipendere. Anche qui avevo fatto così delle letture, delle ricerche, anzi ci tengo a citare un po' le fonti, perché anche queste sono cose che più o meno un po' tutti hanno anche letto, da Rizza Psicosomatica, che è un mensile ecco, c'era proprio questo argomento dedicato in maniera molto forte, e leggendolo mi ha proprio non solo incuriosito, ma proprio ho pensato: beh, questo è un argomento che vale la pena approfondire. Ancora di più quando ipotizzavano il fatto che questi psicofarmaci, inserendoli nel cibo, no? Entrano a far parte poi di un meccanismo di consumismo di questa società che, ecco, naturalmente la libertà della scrittura ti dà la possibilità di enfatizzare avanti, insomma, scenari, ecco, no? Proprio. Quindi ecco questi due argomenti tragici. Va bene. E invece, tornando a Sergio, abbiamo detto che c'è il blog, che forse è il caso di dire come si chiama, che così se qualcuno è interessato. C'è ancora il blog, che l'indirizzo è javert.splinder.com. E io so, perché insomma, del tuo libro anche scritto sul giornale, che uno dei racconti ha vinto anche un concorso, che è Narratore in divisa, che se vuoi parlare di quello in particolare, c'era una critica veramente di quelle appunto notevoli. No, questo è un altro, questo... non era riferito a questo. No, sono tutti e due racconti che sono premiati all'interno. Allora, uno alla Fiera del Libro di Torino, che mi ha fatto molto piacere perché uno dei giudici poi era Lucarelli, quindi maestro del... E questo è stato quello... Questo di Francesco Tozzi, quel personaggio che tentava di suicidarsi usando... Raccontare tu i vari metodi, perché... Vabbè, usava delle borse di nylon piene di buchi, oppure... Sì. Sì. Oppure fingeva... Lui come tanti in questo tipo di lavoro, chiamano il 113 questi personaggi, non tanto perché vogliono veramente fare quello che minacciano di fare, perché si vogliono sentire un po' il centro dell'attenzione. Alcuni chiamano perché alcuni piace vedere l'azzurro che gira, lampeggiante, queste cose qua, alcuni piace vedere arrivare i poliziotti, poi arrivo io e magari non piace più uno. Questo qui si infilava delle borse in testa piene di buchi, fingeva di suicidarsi dicendo: ah, adesso sto per bere una sostanza, poi era orzata. Nel libro si era legato una corda attorno al collo e si era arrampicato su un albero all'interno di un cimitero. Non lo dico. Se vogliamo leggere un passaggio, tu volevi leggere l'altro, ma non lo so, cioè, sì, è curioso anche questo. C'è come come si era conciato qui. Non so se è troppo lungo o meno. Sì, questo qui praticamente, dove lui era... Beh, ci avviamo, leggo un po', se poi vi stufa, ditelo, che ci avviamo verso il luogo della segnalazione non particolarmente in fretta, ricordando con Alfio alcune delle scenate più riuscite del soggetto. Il tentativo di avvelenamento con la candeggina che si era rivelata poi orzata, il taglio delle vene con una forchetta di plastica, il soffocamento con uno sacchetto in testa che aveva tanti buchi che sembrava traforato da una scarica di pallettoni. Questa volta evidentemente Francesco aveva allestito una scenografia più efficace, scegliendo il Campo Santo di Via Giusti, effettivamente a Trento, lì è. Notammo subito in fondo al viale d'ingresso, tra gli altri cipressi, un fuoco acceso e ci avvicinammo a piedi, lasciando la fedele marea prima di una robusta catena di sbarramento. Alfio parlava forte, esagerando un po' la sua caratteristica risata, mentre la luce delle fiamme proiettava le nostre ombre sull'alto muro di recinzione, sempre più definite e inquiete. Accendemmo le torce, che in quel buio così denso sembravano indugiare e farsi strada a fatica, quasi ostacolate dal fumo sprigionato dal falò. Per spezzare la situazione opprimente, improvvisamente urlai: Francesco, dai, vieni fuori, forza! Ma Francesco non si vedeva né si sentiva. Arrivati al falò, alimentato con secchi rosoni funebri e qualche pezzo di legno marcio, io e Alfio ci guardammo. La chiamata alla centrale doveva essere sicuramente opera di gente suicida, perché Francesco non aveva dato mai buca. Dopo aver oltrepassato il fuoco, puntando le torce oltre una cancellata, verso i vialetti di ghiaia delimitati da ordinate file di lapidi eleganti, notai che qualcuno dei lumini funebri che occhieggiavano lontano finiva per spegnersi nel preciso istante in cui tentavo di localizzarlo. Ritornammo verso i falò e decidemmo di spegnerlo, sparpagliando nelle braccia. Dopo un primo calcio che provocò una cascata di scintille e cenere, una voce al di sopra della mia testa mi fece perdere un paio di battiti cardiaci. «Fermo!» Feci un balzo indietro ad alzare il fascio di luce. Abbarbicato al ramo di un albero, con la sua mole imponente, Francesco stava in piedi con un dito puntato verso di me. «Non spegnere la luce, è ancora presto!» disse. «Francesco!» esclamai sbuffando. «Ma vaffa! Quasi mi fai crepare d'infarto!» In tutta risposta: «Bene, così facciamo il viaggio insieme!» sentenziando con una certa solennità. In maniera piuttosto blasfema, visto il luogo, io e Alfio demmo in contemporanea una sistematina al cavallo dei pantaloni. Non ero mai stato superstizioso, ma come diceva Alfio, campano verace male non può fare. Mettendola sulla amichevole, Alfio disse a Francesco: «Magari un'altra volta, dai, scendi che ce ne andiamo a prendere un caffè.» «Non posso, sono collegato, se salto mi impicco.» A quel punto rivolgemmo il fascio di luce su di lui e vedemmo che veramente quel pazzo aveva attorno al collo uno spago, una corda sottile, ma questa era spropositatamente lunga rispetto alla sua distanza dal suolo. Un eventuale salto nel vuoto non avrebbe sortito nessun effetto. A questo punto bisognerebbe magari leggere un passaggio anche del tuo libro. Ecco, però io prima di tutto ero curiosa di chiederti come sei riuscito a far combaciare tutte le varie, i vari filoni di storia. Hai uno schema, si vede, non lo so, mi viene in mente Zoderer ultimamente, che ho visto le foto che lui ha tutte le pagine del libro appese alle pareti e le corregge, le modifica, le lima sulle sue pareti di casa. Non so tu come abbia fatto a starci dietro a tutte le storie, perché sono veramente parecchie. Questa è la grande sfida che nasce, no? Nel momento, almeno per quanto mi riguarda, una sfida di un ascolto degli argomenti, la voglia di descriverli e la voglia di metterli insieme e la sfida di riuscire come. Naturalmente poi c'è questa bella cosa che è la libertà di chi scrive, che può appunto organizzarsi al meglio. Forse tu ti riferivi anche al fatto che ho dato questa passione al protagonista dello sci, ad esempio, dello sci di fondo. Mi è sembrato giusto in questo piccolo lavoro, insomma, di dare un piccolo tributo a quello che è uno sport bellissimo che è lo sci di fondo. ed è un argomento come tanti altri, insomma, poi in definitiva, no? Quindi naturalmente da qua in avanti non verrà più magari menzionato, però in questa, diciamo, partenza questo sì. Perciò è una sfida il fatto di far incastrare tutto, e alle volte non è assolutamente, a parte scontato, ma non è che si sa subito dove si vuole arrivare, ed è questo poi alla fine che è anche bello, no? Riuscire a seguire questo percorso non sapendo dove ti porta, però sapendo che sicuramente si riesce a trovare il giusto incastro. In questo momento è la cosa che più mi attrae di quello che scrivo, di quello che voglio scrivere. Sì, sì, nel senso che ci sono questi flash, esatto, del passato, Max Venturi, esatto, che ha un compagno con cui, sì, va a sciare, e che poi si ritroveranno sui fronti opposti, perché questo suo compagno di sì, allenamenti di sci invece diventa lo scienziato senza scrupoli che... sì, appunto, poi non riveliamo più di tanto, ma la narrazione procede anche con aspetti abbastanza simmetrici di coppie che si ricompongono. Poi allora ci sono i due amici del passato, insomma, che vengono dalla valle di montagna e poi si ritrovano. Appunto, uno perché Max Venturi è appassionato e va a fare la Vasaloppet, l'altro invece in Svezia lavora per questa industria farmaceutica, e perciò appunto ci sono dall'altra parte invece il musulmano che praticamente rischia di essere preso come terrorista e invece è stato solo incastrato dalla terrorista vera, e che poi invece diventa uno degli elementi appunto essenziali per contrastare questo progetto terroristico, per cui insomma il lavoro è stato anche di notevole, insomma, anche fantasia, ma anche di far incastrare tutte le parti. Così, anche con dei risvolti sentimentali, perché poi si formano delle coppie fra questi personaggi. Un po' d'amore non guasta mai, no? Certo. Nella vita. No, è importante, prima di scrivere uno legge, no? Quindi ognuno di noi è un lettore, e quindi anch'io quando leggo mi accorgo che sono interessato nel momento in cui c'è un alone di mistero in quello che leggo, no? E quindi ecco perché poi dopo personalmente mi sono ritrovato in questa veste, cioè creare quell'alone di mistero, quell'incertezza che poi però senti che ti porta a volerlo scoprire, e ti porta... E poi tu non hai detto che fin dall'inizio hai tutto chiaro di come procederà la storia? No, anche perché poi anche le altre cose che poi si scrive, cioè ti accorgi proprio che non hai proprio ben chiaro dove vuoi arrivare, però ripeto, è una sfida nel voler poi continuare, no? E alle volte è bello proprio rimanere poi sorpresi anche da te stesso, quando ti sforzi a trovare una soluzione, un motivo, un qualcosa, e poi lo trovi, allora è anche un po' un gusto, no? Per Quanto ci hai impiegato a scrivere questo, concepirlo? Ma questo non ci ho impiegato molto. Perché questa è la seconda prova, poi c'era qualche mese. Poi, ripeto, se parlo un po' sul più tecnico, una volta contattato poi l'editore, Giovanni mi insegna, l'editore te lo fa riscrivere quasi un'altra volta. E tu ubbidisci molto volentieri, perché per te l'editore l'Evangelo, e insomma poi magari un po' ti penti più tardi, però insomma devi anche realizzarlo, no, questo lavoro. No, ecco, una cosa che è bello penso dire, no, Sergio, è che al di là della solitudine, tra virgolette, che si sceglie per scrivere, poi dopo vai a cercare il confronto con gli altri, no? E bene o male è sempre positivo. Per non far torti dovrei leggere un passaggio, inizio da un po' dopo, una paginetta e mezza, per non essere magari troppo lunghi. La zona dell'esplosione nel frattempo è qui, ambientazione periferia di Oxford, 6 gennaio 2010, insomma. proprio dei giorni nostri. La zona dell'esplosione nel frattempo era diventata improvvisamente calda. I primi ululati delle sirene riempirono gli attimi di vuoto nati dopo quei drammatici avvenimenti che avevano dell'inspiegabile per la quiete che solitamente regnava nella campagna di Oxford. Ma mentre la gente si chiedeva cosa potesse essere successo, Hassan guidava velocemente e in tre quarti d'ora erano già spariti nella periferia di Londra. Hassan, su indicazione di Khaled, entrò nel parcheggio incustodito di un enorme centro commerciale nei pressi di Heathrow. Dopo aver posizionato il furgone dietro una gigantografia pubblicitaria situata in una zona molto isolata dell'area, spense il motore. «Che facciamo ora?» disse girandosi verso Khaled, ma furono le sue ultime parole. Il suo sguardo infatti incontrò la canna bruna dotata di silenziatore della pistola di Khaled che puntava contro di lui. Due colpi soffocati si dispersero immediatamente nell'abitacolo. Il capo di Hassan cadde inesorabilmente in avanti, mentre il sangue cominciava a imbrattare la sua camicia. Prontamente Khaled lo bloccò tirandolo verso il centro dell'abitacolo. Poi, dopo aver trascinato il corpo nella parte posteriore del furgone, quella coperta e priva di finestrini, prese un sacco a pelo, avvolse il corpo di Hassan e lo cosparse di benzina. Raccolse in fretta le sue cose e scese dal mezzo. Senza fretta si diresse verso la Ford Focus parcheggiata poco distante il giorno precedente. Prima di allontanarsi completò il suo lavoro posizionando una carica di esplosivo con un timer sotto il parafango del furgone. Tempo 5 minuti e di Hassan, che aveva la colpa di averlo visto troppo bene in faccia, sarebbe rimasto a poca cosa. Altra ambientazione è quella di Mora, dove c'è l'industria degli psicofarmaci. Mora, 6 gennaio 2010. E chiusa nel suo studio dalla mattina, Jodie era alle prese con i test sullo Xenex, esami complessi che la stavano facendo letteralmente impazzire. Sorprendentemente risultavano quasi tutti positivi, le mancava solo il più importante. Attese i minuti necessari affinché la reazione chimica avesse luogo, ma quando ebbe l'esito non si tranquillizzò affatto. Così com'era, lo Xenex poteva essere estremamente pericoloso, la sua azione risultava troppo aggressiva sul cervello dei pazienti e vi era il grave rischio che il tessuto cerebrale di chi lo consumava subisse una costante e irreversibile riduzione, oltre a rischiare un'eccessiva dipendenza dal farmaco stesso. Intorno a sé sentì il vuoto. Come poteva aver agito con così tanta leggerezza? Aveva firmato un progetto che avrebbe provocato danni estremamente gravi e non ci poteva fare più niente. Il farmaco stava per iniziare il ciclo di produzione, ma soprattutto era sua la firma del progetto. Un'ipotetica inchiesta avrebbe stroncato per sempre la sua brillante carriera e avrebbe buttato al vento anni di studi e di sacrifici. Doveva fare qualcosa, ma non sapeva assolutamente da che parte cominciare. Era tardi, quasi mezzanotte, e improvvisamente fu assalita da un profondo senso di abbandono. La situazione era grave, aveva paura di essere implicata in uno scandalo di portata mondiale. Doveva assolutamente salvare se stessa. Ecco, anche qui, insomma, ci sono problemi. Dove eravamo rimasti noi? I racconti nel frattempo sono aumentati? Ho continuato a lavorare, sì, quindi finché... Ci sarà materiale forse per un altro libro, se questo vende bene. Forse. Sono continuati ad uscire, cioè tutta la parte che dicevo prima, limata e messa da parte, c'è ancora, da quella ogni tanto riesco, tempo permettendo, a tirarne fuori degli altri, a dargli appunto questa forma di racconto. Come dicevi prima, appunto, che parlavi dei poliziotti dei telefilm, allora è curioso, ma lo scopo è proprio quello di non assomigliare ai telefilm dei polizieschi che si vedono, che adesso poi vanno per la maggiore, che a me danno anche fastidio. Anche Cogliandro, il mio amatissimo Cogliandro, è già diverso. Lui è molto ironico. Ma questi polizieschi, con questi poliziotti infallibili, con questi casi esagerati, grandissimi, enormi, ovviamente non fanno parte questo tipo di racconti. Anche se il protagonista poi ci si vede, ci si immagina di essere il tenente Colombo della situazione, quello che non tira neanche fuori le manette, la pistola non ce l'ha, e da un suo ragionamento poi guarda uno e dice no, sì, sei stato tu, e questo mai visto qualcuno che reagisce, si costituisce direttamente. Anche Derek è un po' così. O no? Anche Derek, sì, oppure i vari poliziotti, insomma quelli... perché forse magari in tutti i lavori, no? Uno si immagina, magari chi fa un po' teatro, si immagina di essere lo strella della situazione, o chi fa il giornalista, non mi viene in mente un grandissimo giornalista, però quella volta che fa un qualcosa di fatto bene, anche il poliziotto quando fa la sua attività si sente un po', no? Allora, in particolar modo questo personaggio si sente un po' la pantera, perché è il simbolo delle volanti, perché vuol dire essere scuri, non farsi vedere nella notte, andare così, essere questo felino che si immagina di essere proprio un animale, nel momento in cui sente quasi l'odore vede il vetro rotto dell'appartamento, quindi immagina che dentro, allora a questo punto c'è un ladro, io devo andarlo dentro, devo andarlo a prendere, si sente un po' sto felino, sto si immagina insomma un po' di essere questa... Poi nella realtà, allora, fa più effetto i casi in cui poi l'esito è imprevedibile. Tanto per prendere qualche esempio, quando io entro, per questo caso parlo di me, nell'appartamento dove vedo che è entrato un ladro, e arrivo all'interno e lo cerco, e questo a un certo punto si vede scoperto, però c'è la finestra aperta, siamo a piano terra, e si butta dalla finestra, e io in quel momento ho perso, come poliziotto ho perso, però nello stesso momento in cui mi dico qui ho perso, perché questo si poteva, ma poi mi chiedo ma perché ha lasciato una finestra aperta, e poi questo perché ha rotto la finestra per entrare se la finestra è aperta dall'altra parte, perché l'appartamento sì è il primo piano da questa parte, ma dall'altra parte è al terzo, quindi era uno strapiombo, ecco perché ha lasciato la finestra aperta. Questo che si butta non va a finire sul prato inglese, va a finire nella rampa del garage, tre piani sotto. E questo, no, sono tutti casi piccoli e comuni, e che però hanno effetto se hanno appunto questo finale un po' fuori dal comune. Come i personaggi che vengono presi. Allora all'inizio non c'era da parte mia nessuna volontà di fare qualcosa di serio, e difatti non è poi granché serio quello che poi è diventato. C'era quella di parlare del lavoro del poliziotto alla fin fine, no? Il lavoro del poliziotto, quello che fa, quello che... Mi sono accorto che andando avanti invece, più che parlare del lavoro del poliziotto, parlavo delle persone che i poliziotti incontravano. E allora c'è appunto, parlavamo prima dell'aspirante suicida, così. L'aspirante suicida è anche Fabio. Oppure Fabio che si era innamorato di una signora, convinto che fosse una signora, alla quale faceva una serie di regali sempre più costosi, sempre più cari, e lui non si è mai accorto che altri regali altrettanto cari li facevano anche altri 50 signori, persone della zona. Clienti. Storia che poi però si è conclusa drammaticamente, e la storia è vera, questo ragazzo poi si è ucciso, tra parentesi, si è buttato poi da un palazzo. E, esatto, pure la signora pazza che magari... tanti di voi, spero di no, ma però potrebbero avere nel condominio, quella che la mattina va giù e prende tutta la posta di tutti i condomini e la divide in ordine, che ne so, colorato, no? Tutte le lettere blu, le lettere gialle, le lettere verdi, lascia lì, oppure che vi pota le piante, oppure una sera che i zerbini esatto, ha ricavato degli animali, ogni zerbino ha fatto un animale diverso. Sono questi poi i personaggi con cui è a contatto il piccolo poliziotto del 113, no? Perché il poliziotto del 113 alla fin fine, come citavi tu la prefazione di Alessandro Marangoni, appunto è questa sorta di tachipirina, no? Che si somministra. Quando c'è l'omicidio, il poliziotto del 113 si arriva, si chiude tutto quanto, poi alla fin fine quello che è stato, invece ha a che fare con tutta questa serie di varie umanità che... Ecco, questi casi, io non potevo scrivere sulle relazioni che la signora Beatrice tagliava le cose, che una volta si è rubata tutti i coni stradali, ha fatto tutta una gincana, ha deviato il traffico in garage praticamente. hai voglia, io poi, io sì che poi la devo denunciare perché ha rubato il cono, ma devo finirla lì, ha rubato il cono, sembra che una signora cosa ti rubi il cono, però poi andando a vedere dietro tutto questo lavoro, era più carina la storia secondo me, secondo quel dirigente. Ma io sono curiosa di sapere, tu continui a dover scrivere, redigere dettagliata relazione? Io esco un po' meno, non so se esco un po' meno perché il mio capo ha detto forse è meglio che stai qui e fai altro, fai altro, così non hai spunti. Nell'ufficio dove sei adesso non ecco, ho meno spunti, ho meno spunti. Però quelle poche volte che io, quelle poche volte che esco, o sarò sfortunato io, o fortunato a seconda dei casi, qualcosa mi succede sempre. Spesso mi trovo anche l'ultima volta che sono andato anche all'ospedale con varie. Però con qualche punta. No, vabbè, ma sono episodi. Il poliziotto deve passare ogni tanto all'ospedale perché fa parte del lavoro. No, ma no, appunto, no, non ci sono questi conflitti a fuoco. Sono ben rari i conflitti a fuoco. Se io ho sparato nel corso della mia attività di poliziotto, ho sparato semmai contro una persona perché non ce n'è mai stata la necessità, ho dovuto sparare per fermare una persona, ma spesso lo scopo che ottieni è completamente l'opposto. Se io dico fermo, polizia e sparo, quello se andava ai 10 all'ora andava ai 40 poi, perché sente. Invece la realtà di Moena come... Che termine ha ispirato? Ma la mia realtà non c'entra direi niente insomma con quello che mi ha ispirato diciamo il libro, nel senso che noi abbiamo una realtà di polizia che per certi versi è una realtà d'élite, è una realtà in cui tu ecco, previeni, aiuti, soccorri, fai il soccorso alpino, siamo legati allo sport e quindi comunque una sicurezza nell'ambito delle piste da sci, la squadra cinofili di cui io coordino, quindi abbiamo tutta un'altra realtà rispetto a Sergio, no? Infatti io ascoltandolo, so come voi, provo le stesse cose che provate voi. Poi vabbè anche chiaramente poi anche a me sono capitate delle cose, noi ad esempio, e questa è una delle singolarità della polizia, no? Se una questura è organizzata in un certo modo e quindi le storie di Sergio sono eloquenti, una realtà come la nostra a 1200 metri in montagna e che viviamo la montagna al 100%, ogni tanto il Ministero cosa fa? Pensa bene di prendere 10 di noi, 20 di noi e di portarli in una piazza, esatto, di portarli allo stadio a fare servizio di ordine pubblico. Quindi a me ad esempio è capitato di essere tra i tifosi, gli ultra del calcio, piuttosto che in una manifestazione, no? E quindi anche lì insomma, no? Ma tu comunque sei stato professionista poi. Sì, poi io provengo dallo sport, io sono entrato nella Polizia di Stato come atleta, come sciatore di sci di fondo, quindi provengo da quella realtà, che è una bellissima realtà, una bellissima esperienza, che però dopo ti dà la possibilità di lavorare sempre nell'ambito della polizia, però in montagna. Infatti poi io ho dato un senso alla mia vita lì, anche perché la mia famiglia è lì, sono nato lì, abbiamo una qualità di vita direi ottima, quindi è bello anche questo. E quindi siamo due realtà diverse, Sergio e io. Una metropolitana e l'altra di valle. Sergio montagna. Ha dovuto combattere sulla strada determinate cose, io sono stato più fortunato perché sono stato più, diciamo, coccolato, insomma... Però una ci ritroviamo qui un po', adesso, no? Beh, anche per quanto anche quella immagino che quando fate poi soccorsi alpini così sì. Sia drammatica. Poi è chiaro che comunque ti dà possibilità di entrare meglio nei meccanismi, no? Anche se si parla di attività di indagini, di, insomma io faccio sempre parte di un ambiente in cui comunque hai dei contatti, hai modo di confrontarti, quindi sei comunque un po' agevolato nel poter parlare, certo. No? Di certi sì, beh, certo, tu parli poi di tutti questi meccanismi, no? Su internet, della come per le indagini siano determinanti e come anche per gli attentati siano determinanti i meccanismi che poi evidentemente ormai le indagini si faranno tutte a questi livelli telematici, per cui si dovrà sapere tutti questi meccanismi per cui le password vengono inviate dai terroristi magari da una centrale per far scoppiare la bomba, e tu li hai spiegati molto bene, voglio dire, questi meccanismi. Senz'altro questi la tecnologia fa parte di questa società e quindi viene sfruttata tantissimo. Però anche a me, naturalmente in modo diverso rispetto a Sergio, però anche a me interessa molto far uscire il lato umano, no? la parte umana della persona, la parte proprio della forza ma anche delle debolezze, perché alla fine con tutta la tecnologia che possiamo disporre, però se fa l'errore l'uomo, chiaramente poi tutto risulta vano, quindi è bello, è importante far emergere sempre questo, no? Domande dal pubblico, perché direi che le mie più o meno le ho esaurite. Non so se state lavorando già a qualche... Beh, tu ci hai già detto che continui a alimentare il tuo blog, invece tu, Graziano, sì, stai già... Sì, sto continuando a scrivere, ho già scritto un altro romanzo, un'altra storia. Ne sto concludendo un'altra, insomma. Produzione anche tu. Sì, anche perché tra un'uscita e l'altra, questo è il secondo, c'è talmente tanto tempo, giusto Giovanni? Ma talmente tanto che tempo. Che hai tempo, tutto il tempo di pensarne un altro. Se si ha voglia di scrivere, ce n'è finché ne vogliamo. Perché tu questo l'hai scritto quanto tempo fa? Beh, qualche anno fa. Per cui il fatto di ambientarlo 2009-2010 lo prevedevi come un futuro? No, poi dopo è stato un po' sistemato e adattato, sì. Io ho scelto di rivolgermi a un'agenzia letteraria attraverso la quale poi l'agenzia contatta gli editori. Ritengo che sia una scelta giusta, insomma, perché lo vedo come un metodo, come una possibilità di poter andare avanti, di poterti fare conoscere. È una delle strade, insomma, no? Poi c'è magari chi preferisce arrangiarsi, è un mondo abbastanza variegato, però logicamente c'è da aspettare, c'è da mettersi in gioco, c'è da accettare proprio questa... Anche modifiche che ti chiedono. Ci sono tanti lati positivi, però ci vuole veramente una grande, grande pazienza, una grande volontà e anche essere convinti, insomma. Quindi... Perché tu dicevi che avresti scritto il doppio di pagine, queste pagine sono 180 e qualcosa, 190 invece che ne avevi scritte praticamente. Proprio a uno dei corsi che organizza Giovanni, una delle frasi che mi aveva colpito da parte di uno scrittore, perché Giovanni contatta dei scrittori professionisti per insegnare, ovviamente trasmettere, e uno di questi ha detto: la scrittura è come una scultura, no? È come, quindi là sono rimasto anch'io un po' perplesso, ma com'è possibile? Invece è proprio così, cioè tu scrivi poi devi togliere, no? Ed è una crescita, un'esperienza, e quindi bisogna accettarla e bisogna mettersi in gioco, insomma. Per cui aveva ragione il mio dirigente del loro, bisogna togliere, lui ha tolto tutto. Era un precursore lui, no? Sì, a prendere il blocco di mano, buttarlo via completamente e ricominciare da capo. L'ho tolto e buttato. Esatto, peccato esatto. Che il linguaggio poi che lui ti avrebbe consigliato non era proprio dei più letterari. Sì, esatto. Un po' più burocratico. È quello che a noi giornalisti fa impazzire quando veniamo a ascoltare le conferenze, cioè anche quando si sentono le varie interviste al telegiornale, così. Che sono veramente un insieme di la suddetta si portava. Quello è infatti il poliziesco, il poliziese da noi, poi il modo di scrivere dei poliziotti che sono famose, insomma, le girare attorno, cioè essere, girare attorno a un coso, a un posto, essere, fare, essere circoncisi attorno a un posto, che suona un po', no, un po' così. Sono tante, però scriviamo qualcos'altro. Le scriviamo male noi, le diamo voi che cercate di capire di... e renderle un po' più avvincenti. Ecco, questo è un altro aspetto che spesso, e qui è la frecciata che tirano ai giornalisti. Sapevo che non sarebbe mancata. Che uno anche dei motivi per i quali mi scrivevo le relazioni, volevo anche a un certo punto, rubandole il lavoro, scrivermi anche gli articoli, perché io vivevo in prima persona una storia, un episodio che poi raccontavo, non dettagliatamente perché non potevo, quindi lo davo al mio capo che lo leggeva, lo girava all'ufficio stampa, che lo girava a lei, che lei lo metteva su carta, e poi io lo leggevo e mi chiedevo, ma chi ci è andato? Chi ha fatto? Era completamente diversa. Completamente diversa. E invece una cosa invece che mi ha fatto piacere, tanto per... Concludo così. Che mi ha fatto piacere, mi piace citare, proprio allacciandomi a sto fatto del vivere, vivere un'esperienza, raccontarla, vederla raccontata da altri. A me è successo che dal blog alcuni dei miei racconti sono stati usati come testo per dei fumetti. Un personaggio che c'era già, un ispettore, anche se oggi gli ispettori ne abbiamo buttati fuori, ispettore Santoro, su una rivista mi dicono per addetti ai lavori, non di quelle che non si trovano, non si possono comprare. Non ci sono nelle edicole. Esatto. C'era questo ispettore Santoro, che era un ispettore di un ufficio di polizia di Bologna, e l'editore appunto ha preso i testi dei miei racconti e li ha ambientati a Bologna senza cambiare una virgola. Questo mi ha fatto piacere da una parte, perché in fondo l'attività che facciamo poi a Trento funziona anche a Bologna, può funzionare. Ed è stato piacevole e strano vedere quello che io ho vissuto e che ho raccontato e che poi un'altra persona ha ricostruito e addirittura disegnato, e mi ha anche disegnato più brutto ancora, lo dico sinceramente. Però ti ha fatto piacere. Più vecchio, mi ha fatto più vecchio, con più barba e più tutto acciaccato, però. Beh, anche il tuo Graziano potrebbe essere un canovaccio, una sceneggiatura per qualche film. È sempre un sogno, più o meno un po' di tutti, no? Che scrivi poi possa diventare qualcosa di più, oppure addirittura un film. Non lo so, al momento io mi accontenterei di scrivere, mi accontenterei di riuscire a pubblicare non dico ogni 5 anni, ma 2 anni e mezzo, sarei già contento. Poi chissà, insomma, no, ci sono, a parte scherzi, mi rendo conto, più vado avanti, che ci sono proprio delle regole fisse, cioè ci sono tante buone storie, no? Tanti buoni libri, però per chi è all'inizio, per chi non ha un nome, per chi non ha appunto proprio un'immagine, no? che possa poi essere anche commerciale, non è semplice. Ti fermi, insomma, no? però è bello sognare, è bello. E per non mettersi in gioco, no? E poi soprattutto di la soddisfazione. Le nostre ricche province, che è da tempo che da noi si parla anche della Film Commission, perché alcuni, anche in Alto Adige, sono stati ambientati alcuni film, no? Negli ultimi tempi, ma anche noi, l'appoggio logistico che è andato alla Fiction su De Gasperi, a poi vincere di Bellocchio, così. E si continua a dire manca una Film Commission, come invece altre regioni come Piemonte, Friuli, dove hanno fatto un sacco. Un centro che promuove le location da qualche mese. Sì, perché quello è essenziale per attirare registi e idee, insomma. Sì, e allora però, magari questa ambientazione. Per esempio c'è una casa editrice trentina, ad esempio, no? Per per vedere un po' queste regole che poi sono anche disattese, che non vuole, cioè pubblica cose che non hanno niente a che vedere col Trentino, ad esempio, no? Ecco. Ah. Per dire, quindi non, ed è già conosciuta questa radioattrice, no? Cioè vedi, alle volte... È un limite anche, non è detto che sia... Però sono convinto che come tutte le cose, anche partendo soprattutto dai libri, è un passaparola, è un... e poi soprattutto tenerli vivi attraverso le presentazioni, no? Attraverso le... Certo. Ma il libro vive anche di passaparola, perché sì, alla fine vedo che tante volte si leggono delle cose perché qualcuno te lo regala o te lo consiglia, certo, l'ha trovato bello. Chiaro. Certo. È bella l'attività delle biblioteche proprio per questo, perché permette comunque di tenere vivo, di parlare di tutti, veramente, di tutti gli argomenti. Sì. Bella. Bene. Bene. Ringraziamo. Parlatene. No, scusa. No, dico parlatene. No, io avevo già chiesto se c'erano domande o qualche intervento. Se c'era qualche richiesta. Abbiamo raggiunto lì. Ah, ecco, bene. A parte il corso presso questo signore qua. Non a casa mia. No, questa capacità di scrittura, la formazione scolastica viene. Allora, prego. La formazione, la mia scuola si chiama via San Severino, piazza Dante, piazza. La mia scuola è stata la strada. Vengo dalla strada. Da bambino faceva dei bei temi? C'è la mia mamma qui anche, forse può rispondere. Allora, da bambino io andavo spesso fuori tema. Spessissimo, io ho riguardato, sì, andavo proprio fuori, andavo via per conto mio. Questo è sempre un buon indizio di solito. Sì, il tema è una gabbia, no? C'è pure sì, creatività che uscire fuori. Ecco, io se Vedi la spiegazione scientifica. Rivedo quaderni miei con voti anche negativi in cui sì, ma non è quello che ti ho chiesto io. E poi i miei racconti sono di storie di vita e si racconta di e quando mi hanno pallottolato la cosa. No, a parte, no, ma al di là quel momento lì, quando poi io l'ho scoperto da internet, io l'ho pubblicato su internet. Su internet è bellissimo perché è gratis, si può pubblicare. I blog mi piacciono perché si può scrivere, perché non è Facebook che si scrive buongiorno, oggi ho mangiato i wurstel. Si scrive un po' di più chi scrive sui blog, sotto in fondo ha la voglia di raccontare, di dire, no, è un diario, non si limita a poche righe, anche se perché i racconti sono corti, comunque deve rispettare delle regole di internet, non puoi scrivere un racconto di 20 pagine perché dopo la quarta riga, allora nelle prime quattro righe devi cercare di attirarteli e poi concludere abbastanza velocemente. Da lì ho cominciato ad avere appunto delle segnalazioni, dei commenti su commenti, e lì allora ho detto vabbè, a sto punto proviamoci, vediamo cosa succede. Io invece come scuola ho capito che l'ho sbagliata in pieno, perché ho fatto la ragioneria in una famiglia di ragionieri e saluto mio zio presente, che lui invece è riuscito, e io invece dovevo veramente buttarmi scegliere meglio, no? Una scuola magistrale, insomma, dove potevo, perché in effetti poi la lettura e la scrittura è emersa, no? Però le cose si capiscono sempre dopo. E però devo dire che uno degli argomenti del libro, vale dire lo sci, lo sport, l'agonismo, mi ha fregato. Mi ha dato tanto, però mi ha tolto tanto, cioè mi ha fatto sbagliare scuola. Detto questo, ho capito, mi sono avvicinato alla scrittura perché, lo ammetto, come l'ho detto tante altre volte, lo dico sinceramente e serenamente, perché avevo bisogno di guarire dentro, la scrittura ti, ti fa guarire. È una terapia. Sì, è una terapia. Ho avuto dei problemi miei interni da risolvere e la scrittura, un giorno ho deciso di scrivere. E questo mi ha aiutato, ecco, e lì ho scoperto. No? Prima ero un lettore, insomma. E però hai frequentato poi. E poi dopo, quando ho capito, mi sono interessato e appunto qui a Bolzano, presso l'UPAD, ho trovato questo bellissimo ambiente dove si fanno questi protocolli operativi, sia, no? Anche Valeria ha avuto modo. In Italia ce ne sono tante, no? Di scuole creative. Però è un'opportunità per noi della zona poter accedere. Quindi ho conosciuto Giovanni e ho apprezzato tantissimo, insomma, la sua attività. E spero di ritornare a scuola da Giovanni stavolta, però. Sì, non lo escludo. Adesso non sbaglio più. Ringraziamo gli autori e la giornalista Sandra Mattei per questa serata piacevole. Grazie a voi. E per l'amore per il loro lavoro e la passione per la scrittura e la lettura che ci hanno trasmesso, oltre che la curiosità e l'indulgenza anche nei confronti delle persone, no? Certo. Del genere umano, ecco. Sì. Grazie.